Yes, people, questo è Jolly Roger, venerdì 4 febbraio, in diretta dal Brancaleone. Questa è la sigla di Jolly Roger. Iniziamo questa che è la nuova puntata di Jolly Roger. 4 febbraio, siamo qui, il gruppo non è anche questo venerdì al completo, mancano Chiara e Luca, bloccati anche loro da varie quarantene, ma noi non ci fermiamo, quindi iniziamo questa prima puntata di febbraio. Prima puntata con una dedica speciale a una persona, un'attrice unica che è Monica Vitti. Pirate Radio, Jolly Roger la ricordano così, con uno dei più grandi attori del cinema italiano. Iniziamo così la puntata. Yeah. E torniamo in diretta dalla branca e proseguiamo con quella che è la puntata e parliamo praticamente di quella che sta accadendo in questi giorni, cioè di Sanremo. Parliamo di Sanremo, parliamo di tanta musica, anche perché Jolly Roger è anche tanta musica. E oggi, visto che appunto parlavamo di Sanremo, questa puntata, Alice, visto che è una fan di Sanremo, farà le sue riflessioni su quello che è il Festival della Musica Italiana. Ora passo il mic ad Alice. Ciao a tutti, volevo parlare di Sanremo, che sono due cantanti preferite, che si chiamano Elisa ed Emma. E la nuova canzone di Elisa che sta su YouTube e si chiama Seta. E invece, forse sei tu, è la canzone che ha cantato a Sanremo. Ha sempre un grande talento e un grande stile. Mi è piaciuto molto il vestito che indossava a Sanremo. Salutami tantissimi figli tuoi. Un bacione grande e un forte abbraccio. Grande Elisa! Ecco qua, queste sono le considerazioni di Alice su quello che è la settimana di Sanremo. Avevamo deciso qualche settimana fa, sempre sui pulmini, che sono sul pulmino, tornando nelle rispettive case, avevamo detto no, vabbè, ma tanto è inutile parlare di Sanremo, invece siamo qua e parliamo di Sanremo, chiaramente. E ora mandiamo un pezzo di un artista che proprio in questi giorni è stato a Sanremo. E noi lo lanciamo così e diamo spazio alla musica. Sincera. E torniamo in diretta qui dal Brancaleone. Come dicevamo prima, puntata orfana di presenza di Luca. Poi è successo proprio fresca fresca. Ci eravamo preparate tante cose con Luca, perché dovete sapere che Jolly Roger comunque è anche un lavoro di redazione, un lavoro che svolgiamo durante la settimana e non è una sola limitata al discorso del venerdì della diretta. È tutto un progetto che ci vede protagonisti tutti i giorni, ecco perché ci sentiamo un po' orfani. E un pezzo, dedichiamo un pezzo a Luca, che poi è un pezzo che aveva scelto, aveva portato per lui fresco fresco, perché a Luca piacciono le cose fresche fresche. E quindi, caro Luca, cara Chiara, un abbraccio e un saluto, e intanto questo è per voi. Torniamo in diretta dal Brancaleone, questo è sempre Jolly Roger. Siamo in diretta qui da Brancaleone in compagnia delle amiche del GAS, del gruppo Acquisto Solidale, che salutiamo. Ormai anche loro fanno parte del nostro progetto, diciamo che ci supportano e ci supportano tutti i venerdì. Mancano le battute di Luca. Nel frattempo c'è venuto a trovare Lucone, che come sempre ci porta tanta musica e tanto sorriso e voglia di ballare. E ora passiamo un pezzo che ha scelto lui, quindi un pezzo scelto da Lucone, che è un pezzo di Marracash, Crazy Love. Delle strade e gli edifici, ti resta addosso tipo abbronzatura, ho vinto spesso con molti nemici, ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa, con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa, con gli occhi così grandi c'è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia. La mia Nefertiti, togliti i vestiti, mamma, finché gridi so i tuoi giochi preferiti, mamma. Ami i rischi perché possono ferirti, mamma. Ho lati appuntiti, mamma, come stalattiti, mamma. E la gente che attorno diceva, chi si immerge in un sogno ci annega, ciò che cerchi ti troverà. Papara, papara, va. Lei per me, io per lei, ti direi, ti darei, dove dove sei, dove sei? Come una vertigine lontana mi chiama. Sai che ne ho bisogno stasera. Fumo mentre sopporto l'attesa. Dove sei, dove sei? Calamità, un po' calamità. Siamo due gazzelle, siamo due levrieri. Tutti i miei trucchi, sai tu certi leggi. So che mi amereste anche con zero money. Baciami, respiro, getto i feromoni. Chiamo Vifellina, Selina, Nikita. Sai come tenere alta la sfida. L'amore per noi è fare una rapina. E poi dividere la refruttiva, Nina. Siamo troppo espliciti, svegliamo i vicini, mamma. Con quei tacchi e completini tu mi uccidi, mamma. Amo i rischi perché possono ferirmi, mamma. Hai lati appuntiti, mamma. Come stalattiti, mamma. Chi si immerge in un sogno ci annega. Ciò che cerchi ti troverà. Papara, papara, va. Lei per me, io per lei. Ti direi, ti darei. Dove sei, dove sei? Come una vertigine lontana mi chiama. E torniamo in diretta sempre dal Brancaleone. Questo era il pezzo che aveva scelto Luca, che vi saluta tutti quanti, ma tra poco gli passeremo il mic. Passiamo sempre con un altro pezzo scelto da Luca, di un artista che è anche presente in gara a Sanremo. Proprio perché non dovevamo parlare di Sanremo, proseguiamo la nostra scelta musicale così. Entra in me come svaniscono gli aerei in cielo, dove le voci finiscono inghiottite, come il respiro che lasci sul cuscino, o come un grande segreto che custodisco. Prolunghiamo quei respiri in un'apnea e gridi. Tu sei un fiume che attraversa il paese, obbligando chiunque ti veda a parlare solo di te. Baby, guardi il sole sorgere, guarda dove l'alba è lontana, anche se soffierà lo stesso vento, sarà così freddo, sarà come per me. Voglio vedere dove va a finire la luna. Moriamo spesso nel tempo, solo una volta d'amore. Ho i miei più grandi ricordi, assicuro dentro la pancia. Così, non ti guarderò più così. E continui un gioco a cui non giocare da solo. Dove la bella lontana, anche se soffierà lo stesso vento, sarà così freddo, sarà come per me. Passo il tempo ballando per riempire lo spazio che hai lasciato dentro di me. Piena di bugie e nient'altro, sulla pelle lo sguardo che hai lasciato dentro di me. Riempivamo tutto il palco io e lei. C'era il tutto esaurito ogni sera. Ora che passano i titoli di coda, penso che ci sia sfuggito qualcosa. Riempivamo tutto il palco io e lei, e c'era il tutto esaurito ogni sera. Ora che passano i titoli di coda, penso che ci sia sfuggito qualcosa. Anni di Jolly Roger sfugge ben poco. E torniamo, siamo tornati qui in diretta e ora riprendiamo con Matteo quello che sta diventando un cult, un must. I pronostici. Eccoci qua, e allora diamo direttamente il microfono a Matteo che ci presenterà le sue partite e i suoi pronostici. Le partite da Napoli 5 febbraio, Romaneua 1-0, ore 15, sì, poi? I Temmina 1-0, ore 18, Pio di Lanzio 2-1, ore 25. Domenica 6 febbraio, Atalanta Cagliari 1-0, ore 12:30, Verona-Napoli 0-3, ore 15, Verona 1-1, ore 25. Perfetto, questi sono i pronostici di Matteo, come noi diciamo subito dopo i suoi pronostici. Mi raccomando, se vincete passate da qua. E ora mandiamo il pezzo che ha scelto Matteo, un pezzo, un artista che anche lui purtroppo partecipa a Sanremo, purtroppo per fortuna per lui, ma è diciamo uno degli artisti preferiti di Matteo, che è Blanco. Questo è un pezzo che collabora con Marrakesh e il pezzo si chiama Nemesi. Divergente, dipendente, lo sei diventato, lo sei stato sempre. Come se il passato non fosse presente, come se quel lato non mi appartenesse. Dire sono instabile è più facile, un altro modo per non sentirmi più responsabile. Fuori sono cool come Antartide, se mi sciolgo piango finché sono tutto lacrime. Sto sull'orlo di un crollo, so che non lo controllo. Uno di noi è di troppo, come un sogno in un sogno. Vero borderline con gli eccessi, meno Mr. Hyde e più Jackie. Non si odia mai davvero se non se stessi. E il tempo passa e non mi manchi. Avresti dovuto ammazzarmi. Non ascolto più quello che dici, anche se piange lo gridi, come se il petti e sono gli inganni uccidi. Siamo nati per essere nemici e non mi manchi. So che volevi riprovarci. Ti attacchi come un vampiro fino a togliermi il respiro. Sono il contrario di te. Siamo nati per essere nemici. Chiudo con il tipo con la paranoia, cattivo dentro la mia stessa storia, che ha bisogno sempre di nemici in zona, pure fa la guerra con se stesso quando non li trova, che deve cacciarsi in un guaio solo per capire che è un guaio e che mette ciò che è di più caro in palio, che non sa tenere l'emozione al guinzaglio. Sono il giocattolo rotto con cui gioca il mio doppio. Uno di noi è di troppo, come un sogno in un sogno. Tregua col nemico, cerco l'equilibrio, ma se non recido sono recidivo. Ora devo uccidermi, non sopravvivo. Un'altra volta, un altro ciclo. C'è un antidoto, spingi, sono in bilico. C'è un antidoto, spingi, sono in bilico. C'è un antidoto, spingi e sono libero. Sei mai stato libero? Forse sono libero. C'è un antidoto, spingi, sono in bilico. C'è un antidoto, spingi, sono in bilico. C'è un antidoto, spingi e sono libero. Nemesi. Pezzone, questo scelto da Matteo, e ora proseguiamo con quelle che ormai sono 5 giorni che è finito il calciomercato, e facciamo un po' il sunto insieme a Matteo di quello che è stato il mercato di più che di dicembre, più diciamo di gennaio. Ora passo il mic a Michele, a Matteo, che farà il punto della situazione. Mercato Juventus ha preso Vladic e Zaccaria. Inter ha venduto Sensi, Catello e Corren. La Lazio ha preso Candello, ha preso Pogà. Ok, questo diciamo che era il sunto del calciomercato di Matteo, e proseguiamo con un pezzo scelto da lui. E grazie alla musica. My heart was way too lonely. If you saw it closely, you see the scars. Oh yeah, but all the things you showed me make me feel so holy. That's what you are, and I feel it coming. You're my, my mind. Everything that we're doing feels right. Oh, I love the way that you're moving. You're my limelight. I don't wanna lose you right now. Lose you right now. Take me in your arms. Take me. E ritorniamo in diretta sempre dal Brancaleone, sempre, questo è sempre Jolly Roger. E abbiamo ricordato a inizio puntata la perdita di una grande artista, e ora Pirate Radio nasce dall'idea malsana del sottoscritto, degli altri tre fratelli di Fire Upon Babylon, Taueli, Ilario e Smash. Dedico a loro un pezzo di Bob Marley Jammin, visto che domani sarebbe stato, anzi, il compleanno di Bob Marley, e anche un po' il tema del progetto Jolly Roger, improvvisando così un po' qua, un po' là, muovendoci, ancheggiando, ma non fermandosi mai. E ora partiamo con la musica, lasciamo la parola alla musica. All right, we're jamming. non potevamo non ricordarlo. We can do it anyhow. I and I will see you through. Cause every day we pay the price. We're the living sacrifice. Jam until the jam is through. We're jamming. The thing that jamming was a thing of the past. We're jamming. And I hope this jam is gonna last. No bullet can stop us now. We need to beg, no, we won't bow. Neither can be born or sold. We all defend the right that our children must unite. And life is worth much more than gold. We're jamming, jamming, jamming, jamming. And we're jamming in the name of the Lord. We're jamming, jamming, jamming, we're jamming. We're jamming right straight on yard. Yeah. Holy Mount Zion. Holy Mount Zion. Just seated in Mount Zion. It rules all creation. Yeah, we're jamming. What you want? What you want, boy? We're jamming. What you want? I wanna jam it with you. We're jamming. Original Jolly Roger. Jamming. Jamming, hope you're jamming too. Jam out so much you cry. The fruit again is high to keep you satisfied. Siamo qui, proseguiamo la puntata e vorrei salutare tutti gli amici della chat di Pirate Radio su Telegram. Un big up a tutti gli amici, a tutti i select, a tutti i DJ che da questa settimana hanno iniziato una loro programmazione. Salutiamo da nord a sud, dal Salento alla Sardegna, passando per la Calabria e tornando a Roma, al Tivoli. Quindi un abbraccio a tutti i fratelli, un abbraccio e un big up a Murdoch. Proseguiamo la nostra scelta musicale, visto che siamo in un orario ancora pomeridiano, proseguiamo con una scelta molto fresh. Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere. Sai che ti cercherò in tutta Milano, che ti stringerei forte la mano, nei locali alla moda, anche sotto la coda del diavolo, credimi. Solo con te io sospiro tutta la notte. Pa-pa-ra-ra-ra-ra, forse ti riamo davvero tutta la notte. Siamo eterni, in ritardo per l'ultimo metro, di mezzanotte perché siamo fantasmi, da qualche parte mentre ci pensiamo. Vicini, commetterai un omicidio, le nostre impronte sul vetro, al confine tra un bacio e un incendio. Sai

erano anche di Jolly Roger. E torniamo in diretta, visto che questo doveva essere il momento di Luca e delle sue battute, e visto che sento la mancanza di Luca, ora leggo due battute che mi ero appuntato, perché la settimana scorsa, mentre tornavamo a casa, mi sono sbellicato. E una è questa: ragazzo scoppia di salute, 9 morti e 3 feriti. L'altra è: che cosa fa un gallo in chiesa? Il chirichirichetto. Passata, dette queste due battute che almeno a me hanno fatto sbellicare, proseguiamo la scelta musicale e proseguiamo così. Se non sapremo che dirci, allora guardami. Quando il mondo cadrà a pezzi, allora salvami. Quando perderò il controllo, allora calmami. E se la vita è solo un gioco, non ci so giocare. In testa ho ricordi sbiaditi come foto al mare. Nel cuore piovono meteore, non è un temporale. Casa mia sembra un manicomio ed io non ci so stare. E penso alle cose sbagliate solo per non dirle. Poi capisco cose sbagliate ma per non sentirle. A volte mentiamo a noi stessi solo per pigrizia. È sempre al punto della fine dove tutto inizia. Morirò giovane e triste come Kurt Cobain. Vorrei imparare a cadere un po' come le stelle. E so di essere un caso a parte, un caso a parte. Tu mi vuoi da un'altra parte, non con te. E in fondo so di essere ciò che non vorrei. Crediamo nelle cazzate, in fondo ci conviene. Anche se tu sei un caso a parte, un caso a parte. Ti vorrei da un'altra parte, assieme a me. Morirò giovane e triste come Kurt Cobain. Fuori un temporale ma non piove se ci sei te. E so di essere un caso a parte, un caso a parte. Scappiamo da un'altra parte, ti va bene. Ci sarà il silenzio, allora parlami. Apri la porta, fuori non è come immagini. Cuori di plastica come borsette false. Siamo dipinti su tela come degli angeli, però non siamo santi. E sembriamo così fragili come vetro di calici, bloccati in un istante come dei fermo immagini. Ed ho imparato a perdere quando ho iniziato a vincere. Ho imparato a piangere quando ho iniziato a vivere. Ed ho imparato a correre più forte di chi stava dietro. Se ti vuoi sporgere sul vuoto, attento a chi c'è dietro. Ti senti a posto veramente se ti guardi dentro. O hai la coscienza sporca, amara come aceto. Non sai come ci si sente soli in mezzo alla gente, pieni di soldi e sesso, ma dentro vuoti di niente. Mi ucciderà il successo, l'invidia di questa gente. Resterò una leggenda se morirò a 27. Morirò giovane e triste come Kurt Cobain. Vorrei imparare a cadere un po' come le stelle. E so di essere un caso a parte, un caso a parte. Tu mi vuoi da un'altra parte, non con te. E in fondo so di essere ciò che non vorrei. Crediamo nelle cazzate, in fondo ci conviene. Anche se tu sei un caso a parte, un caso a parte. Ti vorrei da un'altra parte, assieme a me. Morirò giovane e triste come Kurt Cobain. Fuori un temporale ma non piove se ci sei te. E so di essere un caso a parte, un caso a parte. Scappiamo da un'altra parte, ti va bene. Siamo arrivati alla fine di quella che è stata la puntata di Jolly Roger. Abbiamo anticipato la chiusura di puntata un po' per la mancanza, come si diceva, dei due amici, e un po' perché abbiamo anche anticipato, Alice ci ha dovuto lasciare un po' prima, quindi diciamo che ora vi salutiamo e con l'ultimo pezzo augurandovi un buon fine settimana e scaricate podcast, riascoltateci, seguiteci su Pirate Radio, la pagina di, sia di Instagram che di Facebook, dove troverete tutta la programmazione di Pirate Radio. E più di così, mi raccomando, ci risentiamo settimana prossima e buon weekend a tutti e a tutte. Mi basta una chitarra e dico quello che penso. In questi panorami molte volte mi perdo. Questo vento caldo mi riporta a Salerno. Noi due ragazzini andando al mare sul mezzo. Era tutto diverso, oh oh oh. Non ci vediamo da un pezzo, mo oh oh. E devo ammetterlo, mi manca un po'. Tornare dove tutto cominciò. Certi amori ritornano come le onde del mare. E noi che non siamo stanchi di fantasticare. Ma poi basta un momento guardarti mentre stai dormendo. Negli occhi c'è un mondo stupendo. Cosa te ne fai dell'America? Ma l'avresti mai detto. Ti sciogli i capelli nel vento. Anche se è passato del tempo, tu rimani sempre fantastica. Ed io su questa storia ci ho scommesso di brutto. Quindi se poi ti perdo allora perderò tutto. Io che proprio non volevo diventare un adulto. Ci hanno dato il mondo e noi l'abbiamo distrutto. Perciò vorrei tornare come prima. Quella mattina guardavo il mondo ma da un'altra prospettiva. Con te vicina, una bambina che non è cresciuta più. Certi amori ritornano come le onde del mare. E noi che non siamo stanchi di fantasticare. Ma poi basta un momento guardarti mentre stai dormendo. Negli occhi c'è un mondo stupendo. Cosa te ne fai dell'America? Ma l'avresti mai detto. Ti sciogli i capelli nel vento. Anche se è passato del tempo, tu rimani sempre fantastica. Perché niente come te, come te, come te. Così bella non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Sei la luce quando è buio. Per strada a giocare come tutte le volte. Aggiusti le giornate storte. Perché sei fantastica. Fantastica. Fantastica. Fantastica. Ogni volta che tu mi guardi e mi baci piano sento un tempo. Ciao! Ciao!